stretto dentro un porto a poche miglia dall'inferno. Son pronto per non partire, io non mi incanto, non piango e adesso non ho neanche voglia di un lamento, perché son vuoto dentro, son vuoto dentro, son vuoto dentro, son vuoto dentro. Ma non galleggio. Dall'interno, che tutto quel che conta è solo ciò cui appartengo, e il resto si scopre da sé. Mi spiego meglio. Compagni, non ricordo più perché cosa battaglio, perché son vuoto dentro, son vuoto dentro, son vuoto dentro, son vuoto dentro, ma non galleggio. Scovare il mio superamento, l'incontro di mille perché, e al mio risveglio che voglia di pensare è stato solo un brutto sogno, un brutto sogno, un brutto sogno.